dire: vieni tra sei ore. Poi starei seduto con la schiena al muro e ti abbraccerei e ti direi le cose che non dico mai. Crederei le cose che non credo più e sarei felice di sapere che durerà per sempre, per tutta la vita, e non avrei paura di sentirti dire che ti sei stancata o di doverti dire che non t'amo più. Terrei la mano dentro ai tuoi capelli, ti accarezzerei piano e dolcemente, poi sempre più piano e ancora più dolcemente, sino a che qualcosa raggiungesse il cuore. Dicesse: vedi che ora sei felice, è il momento giusto.